Siamo qui per un'intervista in punta di pedale. Abbiamo con noi Simeon Baldi, che spero di pronunciare bene, anzi, pronuncialo tu. Dis ton nom en fait. Ah, Simeon Baldi de Baral. Ok, meglio. Compliqué. E poi abbiamo Adele. Ghiselli. Ok, che praticamente ci racconteranno un po' di On the Green Road, che è questo documentario che potremo vedere sia il 29 al Presidio Non Inceneritore, sia poi al Cinema di Castello giovedì 3, ingresso libero alle 21:30, ingresso gratuito. E perché ci siamo incuriositi su questo documentario? Perché incontra molti, molti dei nostri interessi. Siamo appassionati di biciclette, in punta di pedale particolarmente appassionati di biciclette. Il fatto che colleghi e incontri diverse realtà rispettose ho un piccolo problema al microfono, e rispettose dell'ambiente e comunque dei beni comuni, e il fatto di collegarle tutte in bicicletta ci è piaciuto molto. E quindi veniamo alla domanda. Prima di tutto, come vi è saltato in mente di realizzare questo documentario? Come nasce l'idea di fare questo giro del mondo, di tutto, diciamo, di come è partita? Voi. L'idea precisa, è nata in una sera. Evidentemente era molto tempo, forse che covava all'interno dei due protagonisti del nostro progetto, però l'idea stessa è stata evocata e progettata in una sera stessa. È nata da una telefonata alle 2 di notte tra i due cugini, Simeon Baldi de Baral e Alexandre Asle de Baral, che sono all'origine del viaggio. E hanno parlato un po' del fatto che stavano per finire i loro studi, che uno studiava in una scuola di ingegnere, l'altro stava facendo una business school un po' convenzionale, erano a metà dei loro studi, più o meno secondo anno, e si chiedevano come avrebbero potuto coronare i loro studi e si sono detti, beh, perché non partire? Perché non farlo in un modo diverso e perché non farlo facendo un giro del mondo? Bellissimo. Ma eravate già ispirati ai grandi cicloviaggiatori francesi? Mi viene in mente Claude non ce la farò mai a pronunciare il cognome, poi magari te lo faccio leggere. Comunque, tale Claude, che è stato uno dei primi cicloturisti e tra l'altro ha attraversato, credo, per ben 2 volte, ha fatto il giro del mondo. Vabbè, lui ha fatto un sacco di giri anche in Tibet e cose del genere. Sempre in bici, sempre tutto in bici. Es Martarer, Sì, es suizo, ah, oui, vero. no, muy bello. Es una spiegazione interessante. No, sì, ha ragione. È svizzero, della Svizzera francese. Io sono sempre convinto che fosse francese. Ok. E niente, appunto, vi siete lasciati ispirare oppure è tutta un'idea vostra, un amore per la bicicletta tutto vostro? Sapevate già che qualcuno aveva fatto il giro del mondo? Je vais répondre en français, mais... Perché vai, traduci, traduci. Cioè, lo lascio rispondere e poi traduco? Oppure perché non Sì. sono molto sicura di questa domanda in realtà. Non so se si è lasciato ispirare da un ciclista, da qualcuno prima, o se l'idea gli è venuta dal niente. So che hanno viaggiato sempre molto in autostop e che erano abituati appunto a conoscere diverse realtà e a viaggiare in modo alternativo in questo modo. E so che non erano allenati alla bicicletta prima di partire, quindi che non erano dei grandi viaggiatori di bici e che era una cosa, anzi, assolutamente nuova per loro. Però non so se fossero appassionati di bici prima. Ok. Invece un'altra curiosità, io le poche volte che accoppio bicicletta, macchina fotografica o videocamera, è sempre molto stressante andare in giro, cioè preoccuparsi che la macchina non si rompa e cose del genere, e anche il tempo di usarla. Quindi, com'è stato la realizzazione proprio del documentario? Quanto è stata impegnativa? Doveva pensare prima alle scene oppure sul momento riconosceva un momento bello da riprendere o cose del genere? I due ragazzi sono partiti anche senza nessuna esperienza Ah, nel nella. girare documentari, quindi è stata veramente un'esperienza molto spontanea. Naturalmente deriva da ciò che tutti gli incontri sono stati casuali e che quindi non c'era premeditazione per gli incontri fatti e che quindi appunto le persone incontrate venivano incontrate per caso, non c'era un contatto premeditato dietro e la relazione avveniva in modo molto semplice e molto spontaneo, soprattutto perché è abbastanza raro vedere due occidentali che girano per il mondo in bici. E questo ovviamente distrugge ogni tipo di barriera e mette subito diciamo, le persone in contatto, in un contatto tra pari, uomo con uomo. Sì, molti cicloviaggiatori raccontano proprio questo, che la bicicletta riesce ad abbattere questo muro di diffidenza, ti vedono in bici, pensano, ah, un occidentale povero, cosa strana, no? E immediatamente scatena Perché... un'onda di curiosità Sì. anche e di voglia di aiutare, perché il viaggiatore in bicicletta è anche in una posizione di vulnerabilità, Sì. perché viaggia, loro erano in due, ma comunque poco numerosi, senza posto dove dormire, senza mangiare, e quindi inevitabilmente provocano nell'altro delle reazioni di ospitalità e di accoglienza veramente commoventi. Quindi le scene del documentario scaturiscono da questo. Certo, bellissimo. E poi l'ultima, senza svelarci, l'ultima domanda cerco di fare, senza svelarci molto del film che poi guarderemo appunto o al presidio o domenica al presidio oppure appunto a giovedì, come li ha cambiati dentro questo viaggio? Ma anche nelle prospettive di vita, no? Una cosa è avere come prospettiva di vita appunto una business school che ti incanala in un certo ambiente sociale e lavorativo, o anche appunto la scuola di ingegneria che sei destinato, entrambi scuole, sei destinato ad una vita molto in gabbia. L'ha cambiata il viaggio questa aspettativa, oppure il viaggio è stato solo un appagarsi temporaneamente per dire ok, abbiamo fatto la nostra pazzia, ora torniamo in riga, torniamo in gabbia. Questo viaggio non è stato una parentesi, si è svolto 5 anni fa e da allora Simeone non si è più fermato, non ha mai smesso di viaggiare, tuttora non ha una casa, gira sempre continuamente da un posto all'altro per proiezioni, per eventi e per tornei internazionali. Suo cugino è in Repubblica Dominicana a piantare alberi. Pensavo a ballare Despacito, però no. È impegnato nella riforestazione, nella riforestazione soprattutto contro le multinazionali, cioè si impegna a fare in modo che le multinazionali smettano le attività di deforestazione. Che dire, dopo un'esperienza così, prima entrambi i cugini vivevano un po' a Parigi, facevano una vita normale e non gli pesava. Una volta tornati, dopo tutto quello che hanno vissuto e imparato, quella vita non è più stata possibile. Avrebbero potuto ritirarsi, appunto, magari in una vita un po' bucolica, in campagna, facendo un attivismo un po' privato, diciamo. Però hanno deciso invece di condividere il messaggio che avevano ricevuto, che era stato così forte e così ricco. E hanno deciso di farlo portando appunto un po' di campagna e ambiente bucolico che avevano attraversato in città, Molto interessante questo. nelle città che oggi sono appunto il luogo dove abita la maggior parte della popolazione mondiale e che sono fonte di inquinamento e di problemi sociali, problemi politici, problemi economici, che richiedono soluzioni nuove, tutte da pensare. Loro volevano apportare le voci di persone che spesso sono inascoltate dai paesi del sud del mondo e da culture ancestrali che spesso ignoriamo, soprattutto qui in Occidente. Bellissimo, bellissimo. Mi era venuta una domanda mentre ne stavi parlando su diciamo, la questione i familiari, no? Cioè se io dicessi come mi è successo per il mio primo viaggio in bicicletta. Guardate, io parto, faccio due settimane in bici, stavano chiamando già Disgrazia. l'estremuntore, si dice vabbè, questo non torna più. E invece loro, come hanno affrontato appunto con gli affetti questo fatto di mancare, quanto, poi alla fine quanto tempo sono mancati? Il viaggio è durato Un un anno, più anno. di un anno. Ok. Come hanno affrontato il prima e poi il dopo, quando il viaggio gli ha cambiato la vita? Allora, il prima è stato, diciamo, una decisione presa che però è stata accolta, diciamo, accettata dalla famiglia, nel senso che alla fine loro ragionevolmente hanno detto, terminiamo i nostri studi e poi partiamo. Quindi può essere anche vista in modo positivo e come giustamente una parentesi di vita. Quindi le famiglie erano presenti al giorno della partenza, c'è stata una piccola festa, insomma, i ragazzi si sono finanziati da soli, si sono finanziati in modo autonomo, qualche amico e parte della famiglia ha donato qualcosa per il loro viaggio, quindi c'è stato anche abbastanza sostegno. Loro tornano dopo 14 mesi di viaggio intorno al mondo, che ovviamente erano altre persone, la famiglia non lo sapeva, ma erano altre persone. E quindi i genitori ovviamente gli hanno detto, beh dai, come sono andate le vacanze? Tutto bene, adesso cominciamo a lavorare, no? E loro però cioè, non erano pronti, non erano più gli stessi e quindi lì ci è voluta una fase di transizione in cui appunto hanno cominciato seriamente a montare il documentario che all'inizio non erano neanche certi di creare, l'hanno creato e poi dopo è stato un processo continuo che ha portato all'associazione a formarsi come oggi. Oggi siamo in sei nell'associazione, abbiamo sei differenti poli di responsabilità, diffondiamo il documentario, abbiamo diffuso il documentario più di 300 volte e accompagniamo e animiamo una nuova comunità di viaggiatori che come Simeone e Alexandro vogliono intraprendere un viaggio sostenibile ed etico, li aiutiamo a farlo e a produrre un documentario come loro nello stesso modo. E quindi insomma l'associazione è molto cresciuta e no, non si sono adattati, non hanno ceduto. Simeon, vai ancora in bici? Ancora utilizzi la bici? Est-ce que tu vas encore à vélo? Oui, tout à fait. Et en stop aussi, j'adore le stop aussi. Sì, assolutamente, anche in autostop, adoro l'autostop. Allora, ancora due domande a Simeon, diciamo più soggettive. Una, oddio, soggettiva. Una è una mia curiosità tecnica, perché spesso mi trovo in difficoltà quando pedalo, vorrei anche, quando sono in giro per viaggio pedalando, vorrei anche fotografare, filmare in alcuni posti, però c'è sempre una fretta, forse dopo tanti chilometri poi alla fine ti abitui e prendi un ritmo tuo di viaggio. Se puoi tradurre, grazie a te. Du coup, filmer et pédaler, comment tu fais? C'est chiant, tu voudrais bien cadrer et en même temps il faut avancer. Est-ce que tu peux expliquer sur ça, comment ça s'est passé pour vous? Alors oui, c'est le point très très difficile. Bon, il y a la première technique qui peut être d'avoir une GoPro pour filmer un petit peu à partir d'un vélo par rapport à l'autre. Ça peut être intéressant, mais ça fonctionne jamais tout à fait bien. Et sinon, avec ta caméra, le gros problème, c'est de filmer. Comment dire? Nous, on avait tendance toujours à aller filmer, à filmer très très peu de temps. Quelques secondes et puis après de nouveau pédaler et à se nous faire sortir. Enfin, on sortait pas des plans, on laissait pas des plans qui duraient et peu à peu on a appris. Enfin, maintenant j'ai appris en tout cas à poser la caméra quelque part et à filmer et à laisser filmer en fait. Et je crois que c'est ça, c'est d'oublier qu'on est. En fait, ne pas croire que je suis l'acteur, je filme, je filme, je filme et la personne va regarder ça parce que ça va lui donner envie de vomir, tout simplement. Mais justement, de poser la caméra, de faire des plans fixes et c'est se forcer à faire ça qui est pas facile quand il y a le stress, quand il y a la fatigue, surtout la fatigue et quand même le faire au moment difficile, au moment qu'on n'a pas envie de montrer. Et je crois que c'est ça la clé. Nous, je suis encore en train d'apprendre largement là-dessus, c'est de montrer ces moments-là. Allora, ci possono essere due tecniche, si può utilizzare una telecamera GoPro, che quindi può essere utilizzata per filmare una bici relativa, cioè dal punto di vista dell'altra, ma non funziona molto bene tecnicamente, l'immagine non è bella, altrimenti la seconda tendenza è con la tua telecamera di filmare tantissime cose allo stesso tempo e non fare dei piani duraturi, delle immagini fisse che danno un'idea allo spettatore di quello che succede, ma cercare di cogliere tutte le immagini che succedono allo stesso tempo per riflettere la diversità, ma senza veramente riuscirci. E solamente adesso sta imparando appunto a cercare di fare delle immagini fisse, stabili, posa la telecamera e semplicemente filma, senza cercare di essere attore che prepara la scena e la filma anche per trasmetterla allo spettatore, perché lo spettatore se no si ritrova perso in un vortice di immagini. Meglio lasciare la telecamera, posarla e lasciare che sia lei a filmare. Ed è una cosa difficile da fare, soprattutto quando si viaggia, soprattutto quando si è stanchi e stressati e sta ancora imparando, però è migliorato. Beh, sempre questa domanda. Forse lasciando fare la telecamera eviti anche di preoccuparti tanto delle riprese, rischiando di non goderti il viaggio. Est-ce que en laissant la caméra tout faire, tu risques de justement de pas profiter du voyage? Pour cela, en fait. Oui, Parce que tu as envie de tout faire. t'as tout à fait raison, c'est exactement le point qui est très très difficile et qui est, enfin, c'est vraiment une évaluation à chaque fois à avoir, c'est de se dire, ok, bah, l'important c'est déjà que je vive mon voyage, donc nous on filmait très peu par exemple chez l'habitant, on n'arrivait pas chez l'habitant avec la caméra, parce que sinon ce serait, on trouvait ça un petit peu violent comme approche. Mais en même temps, il y a cette envie de transmettre les atmosphères. Et ça, faut assez vite pouvoir aussi demander l'autorisation de filmer et filmer sur des temps courts. Ça veut dire ne pas tout le temps filmer, mais à un moment se dire, ok, cette atmosphère, celle-là, j'ai envie de la faire ressortir niveau caméra, donc je filme intensément ce moment. Et là, je suis vraiment en mode, je filme, et je réfléchis à tout ce qu'il faut que je filme pour pouvoir le montrer. Et puis il y a d'autres moments qu'on montre pas et on laisse la caméra à côté pour faire les rencontres et pour profiter aussi des moments, quoi. Je pense que de faire différents moments, ça aide beaucoup. Et d'être à deux aussi, parfois, ça peut aider. Sì, esatto, questo è veramente uno dei grandi problemi di viaggiare e di fare un documentario allo stesso tempo, perché ogni volta è una scelta di volta in volta tra filmare e godersi il viaggio. Per esempio, a volte la sera quando arrivavano presso le persone che li ospitavano non avevano la telecamera pronta davanti a loro per filmare il momento dell'incontro, ma allo stesso tempo avrebbero voluto trasmetterlo. E quindi a volte crede che la tecnica migliore sia di dedicare dei momenti precisi solo a filmare e in quei momenti pensa a tutto, all'atmosfera, alla luce, si concentra solo su quello e invece in altri momenti li dedica veramente all'incontro, alla persona, al posto e al viaggio. Ultima domanda, sempre di questo impiccione, come ti ha cambiato dentro, come ha cambiato, diciamo, il tuo sentire, il tuo animo questo viaggio e poi come ti ha cambiato la vita? E se ti aspettavi qualcosa del genere, di com'è poi? Se questo viaggio ti ha Che se come se sta questo lasciando voyage la terra? t'a changé Te la changi, intérieurement dans pardon. ta vie quotidienne et si tu t'attendais à ça, à ces changements. Alors non, je m'y attendais pas du tout. Je savais que j'allais rencontrer différentes choses, que j'allais. Mais j'ai encore du mal aujourd'hui à dire à quel point ça m'a changé. Je sais que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, que ça m'a permis de rencontrer plus ma partie artistique, si on veut, et de commencer à y croire, de commencer à croire dans ce que dans beaucoup de potentiel que je pouvais avoir. Comment dire que ça m'a changé? Enfin, en tout cas, dans ma vision du monde, ça m'a permis de me confronter à des choses de terrain, voir certaines réalités aussi très dures sur le terrain, à la fois au niveau du dérèglement climatique, au niveau des effets de grandes industries ou de pollution assez énorme, par exemple en Inde, et aussi, enfin, parfois la misère et la beauté des gens dans cette misère, et ça forcément, ça change, ça ouvre à beaucoup plus d'humanité. Avant, j'étais peut-être plus technicien. Et aujourd'hui, j'ai plus cette approche où je ressens beaucoup plus les choses et je pourrais absolument pas faire ce que j'étais parti pour faire avant. C'est-à-dire que sinon j'aurais été ingénieur, j'aurais construit des autoroutes, peut-être des aéroports comme Notre-Dame-des-Landes en France. J'aurais travaillé sûrement plus pour l'entreprise Vinci. Donc voilà, ça m'a clairement changé. Au retour, je voulais plus participer à cette bétonisation et je me rendais compte que ces boîtes, ces entreprises sont pas méchantes, mais si elles se font contre les gens, si elles se font pas à l'écoute, ça peut pas fonctionner. Donc ça me pousse vraiment à moi me transformer, transformer mon rapport au pouvoir, à beaucoup de choses, et peut-être pouvoir apporter un changement aussi dans ces entreprises à un moment. Mais déjà, j'ai un travail assez monstrueux et ça m'a permis de m'en rendre compte au niveau de moi-même. Et donc j'y travaille doucement. Il cambiamento che questa esperienza ha avuto su di lui è stato completamente inatteso. Sapevo ovviamente che avrebbe imparato tante cose, che avrebbe fatto degli incontri inaspettati, ma a che punto tutto ciò l'avrebbe cambiato era veramente imprevedibile per lui. Vedere tutte queste realtà locali, anche molto dure a volte per il cambiamento climatico di cui ha potuto essere testimone, per gli effetti di alcune attività industriali, per la miseria anche di alcune realtà del territorio, l'hanno reso molto più umano, mentre prima si sentiva un po' più un tecnico. Pensa che se non avesse fatto questo viaggio sarebbe stato appunto un po' un tecnico, sarebbe stato un semplice ingegnere che avrebbe partecipato alla costruzione di autostrade o di aeroporti, come quello di Notre-Dame-des-Landes in Francia, e avrebbe partecipato a questa cementificazione della città, dello spazio come dell'uomo, senza un ascolto reale delle persone. E se non c'è questo ascolto profondo, le cose secondo lui non funzionano. Ed è stato questo che l'ha spinto appunto a mettere in discussione queste relazioni di potere e a cambiare queste meccaniche. Grande. Terza domanda, perché perdonami Adele, so che mi odi perché ti costringo a tradurre, Je però comprends la bien, domanda, je fais moi-même des interviews. la domanda è breve, ma il mondo là fuori che hai visto tu in questo anno è davvero così pericoloso come ci dicono per costringerci a stare a casa oppure hai scoperto una realtà diversa da quella che ci raccontano tutti i giorni? Le monde que tu as vu dehors, d'ici, est-ce qu'il est vraiment si dangereux comment on nous le montre ici? Et est-ce que ça doit vraiment nous forcer à rester ici où on est, ou que alors on peut se comporter différemment? Alors, je dirais qu'il est dur, parce qu'il y a des réalités qui sont dures, mais il est pas du tout dangereux en fait. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme dangereux. On n'a eu aucun risque, par exemple, pour notre vie en 400 jours de voyage. Il y a eu quelques petites choses, mais vraiment, vraiment rien. On était toujours accueillis par les gens. Vraiment, le monde est très, très accueillant. Et c'est assez drôle de voir comment les médias en général décrivent le monde. Ils nous disent ce pays, il est dangereux. Par exemple, l'Iran, c'est dangereux. Mais en fait, c'est pas du tout dangereux. Il y a peut-être quelques points de danger. Et c'est sûr que si on fait n'importe quoi, oui, ça peut devenir dangereux. Mais en fait, les pays sont rarement dangereux. Et on les décrit comme dangereux. Nous dit n'y allez pas. Alors que ça nous empêche d'aller voir la beauté de ces personnes-là, leur humanité, à quel point en fait c'est nos frères, quoi. Enfin, comme tout le monde là-bas, ils nous disaient, nous on veut, dites dans votre pays qu'on n'est pas des terroristes, parce que on veut vivre en paix, quoi. Donc comme partout. Direbbe che il mondo è duro, perché è duro, ma non è pericoloso. In 400 giorni di viaggio non hanno mai rischiato la loro vita e sono stati sempre accolti in modo più che sorprendente e crede che il mondo sia accogliente e che i media occidentali oggi descrivano il mondo in modo pericoloso senza che ciò sia vero. Per esempio, hanno notato in modo particolare che l'Iran, che spesso è descritto come un paese molto pericoloso, in realtà è composto da persone per la maggioranza assolutamente per bene, accoglienti e anzi molto più gentili della media occidentale Europea. e che questo tipo di lirica ci impedisce di vedere la bellezza dei posti e delle persone e di capire che siamo veramente tutti connessi, siamo tutti fratelli e che in realtà non dovrebbe essere così. Grande, allora continuo così. Grazie Adele, grazie Simeon, bellissima intervista. E ci vediamo giovedì al film, alla proiezione. Poi c'è anche la proiezione di domenica al Presidio Nuovo Inceneritore. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao.